primo esperimento di levitazione attraverso radiazioni elettromagnetiche. L'esperimento che vi proponiamo è uno dei tanti modi per esplorare lo spazio interstellare in maniera autonoma e indipendente. È esposto in punti di immediata comprensione e non vi sarà difficile seguirlo. L'equipaggio Dynamis, astronauti indipendenti, vi esorta a seguire in maniera puntuale e precisa le indicazioni e a non prendere con leggerezza l'esperimento. Una particolare raccomandazione va fatta a tutti coloro che hanno problemi di respirazione, bronchiti, asma, tosse, tracheite, sì, anche un semplice raffreddore. Non intraprendete il seguente esperimento, rischiereste di mettere a repentaglio la vostra vita. Detto questo, come astronauti indipendenti, assolutamente non ci prendiamo la responsabilità di eventuali incidenti causati, gli unici possibili, da problemi alle vie respiratorie. Sia ben chiaro che questo tipo di pratica con il training autogeno, il Tai Chi Yue e psichismi vari non c'entra nulla. Se siete in macchina, accostate, mettete le quattro frecce, chiudete i finestrini e fate passare però un poco d'aria. Se siete a casa o in ufficio, trovate il modo di stare soli, almeno spiritualmente. Punto 1. Sedetevi in modo confortevole su un tappeto, una coperta o un lenzuolo, insomma qualcosa che vi permetta di non essere a contatto con il suolo. La cosa migliore sarebbe una coperta di angora o ciniglia, forse meglio, con ricami raffiguranti galassie, pianeti, ma insomma non è indispensabile. Tenete le braccia conserte. Punto 2. Chiudete gli occhi. Punto 3. Iniziate a vedere nero. State vedendo tutto nero. Continuate a vedere nero. Non esiste nient'altro se non il nero. Tutto intorno a voi è nero. Il nero è il colore dello spazio interstellare. Il nero è dentro di voi, il nero è pure fuori di voi. Punto 4. Respirate con coscienza. A. Inspirate attraverso il naso. B. Trattenete il respiro per 5 secondi. C. Espirate tutta l'aria che avete nei polmoni. Esercitatevi su questa tecnica di respirazione, fatela vostra, risulterà fondamentale per l'esperimento. Interrompete la respirazione solo se inizia a girarvi la testa. In quel caso provate a ricominciare dal punto 1, ma adesso non posso seguirvi. Se anche la seconda volta vi girerà la testa, può darsi che non siate adatti all'esercizio. Su, vi troverete costretti a rinunciare a questa esplorazione. Fatevene una ragione, rinunciate a un'esplorazione indipendente e autonoma radiofonica. 5. Sentite il peso del vostro corpo sulla coperta. Sentite ciò che vi lega al pianeta Terra, la pressione, la forza di gravità. È come una palla di piombo legata al piede di un carcerato e responsabile della vostra condizione di prigionieri del pianeta Terra. Per almeno un minuto e mezzo, diciamo, ripetete Escape from Gravity. Sì, ripetete Escape from Gravity. Ripetetelo con grinta però, non con superficialità, cioè una certa convinzione ci vuole. Ah, non dimenticate la respirazione, non fate cazzate, siamo al punto 5. Punto 6, provate a immaginare come sarebbe il vostro corpo se si trovasse di fronte a voi. Dai, forza, allora cercate di creare un vostro sosia esattamente identico a voi lì davanti, sì. Punto 7. Cercate di trasferire la vostra coscienza nel sosia, quello che avete creato al punto 6. Vedete ciò che il sosia può vedere, il luogo in cui vi trovate, le persone sedute a braccia conserte e tutto il resto. Punto 8. Sentite il corpo del vostro sosia vivere, avvertitelo respirare, ormai siete dentro al vostro sosia. Punto 9. Man mano che vi sentite sempre più a vostro agio nel nuovo corpo, provate a sollevarvi dal terreno e a levitare piano piano. All'inizio bastano pochi centimetri. Continuate l'esercizio di respirazione, se lo interrompete rischiate di cadere. Cadere anche se da pochi centimetri di altezza non fa bene. Punto 10. Prigionieri della terra, continuate a levitare, passate sopra il soffitto, sopra il tettino della vostra automobile, sollevatevi sempre di più, ecco, siete proprio sopra la vostra macchina, il vostro ufficio, la vostra casa, sopra il quartiere, vedete i capannelli di persone farsi sempre più piccoli. Continuate a lievitare, continuate l'esercizio di respirazione. Mi raccomando, se lo interrompeste adesso cadreste da un'altezza tale che non vi lascerebbe proprio nessuna speranza di sopravvivere. Insomma, precisamente sarebbe il vostro sosia con la vostra coscienza a morire in realtà. Del vostro corpo non rimarrebbe che un involucro privo di coscienza, destinato a restare immobile nella posizione numero 1 per sempre. Punto 11. Siete centinaia di metri sopra Roma, godetevi la vista del Colosseo, della Basilica di San Pietro, da quella quota rimpiccioliscono vista d'occhio. Punto 12. Continuate a levitare, siete all'altezza delle nuvole, guardate verso il basso e vedete il pianeta sotto di voi farsi sempre più minuscolo. Prigionieri? Prigionieri della Terra? Ce l'avete fatta? Avete superato la forza di gravità. Siete liberi. Siete nello spazio interstellare. Iniziate a fluttuare. Lì, nello spazio. Pausa di qualche istante. State fluttuando? Mi raccomando però ricordatevi di continuare l'esercizio di respirazione, è questione di vita o di morte a questo punto. Chissà quale quota avete raggiunto, forza. Altra pausa. Fluttuate. Fluttuate nello spazio. Non è fantastico? Non è una delle esperienze più belle che avete mai fatto? Fluttuate, prigionieri. Fluttuate. Ragazzi, ma a questo punto ognuno può decidere quanto vuole starsene nello spazio, a patto che non superi i 10 minuti. Oltre a questo tempo è assai difficile mantenere una respirazione regolare. E la respirazione è fondamentale per rimanere in orbita. Pertanto, chi intenda starsene nello spazio oltre il tempo raccomandato lo fa a suo rischio e pericolo. Dynamis, come astronauti indipendenti, declina ogni responsabilità. Prigionieri, siamo al punto 14 ed è arrivato il momento di scendere. Lo so, bisogna scendere. Localizzate il pianeta Terra e iniziate a dirigervi verso di esso. Guardatelo mentre diventa sempre più grande, i continenti, le nuvole, l'oceano. Lentamente, senza fretta. Punto 15. Localizzate l'Italia e dirigetevi verso di essa. Eccola là. Sì, vicino alla Francia. Non potete sbagliarvi. Punto 16, individuate Roma, lì al centro. Il quartiere, la strada. Puff! Eccovi di nuovo nella posizione di partenza. Trovate il vostro corpo originario, eccolo là. Fermo, immobile, a braccia conserte, su di una coperta o su un sedile di una macchina. Iniziate il complesso procedimento di trasferimento del vostro corpo originario. Non state cazzate, concentratevi. Annullate il vostro sosia. Il vostro sosia non esiste più. Paf! Comparso, in un batter d'occhio. Siete di nuovo nel vostro corpo originario, siete di nuovo schiavi della forza di gravità. Lo sentite? Attraverso il culo. Come ancorato il culo e il cervello sulla terra. Iniziate a aumentare il ritmo della vostra respirazione. E bentornati. Potete aprire gli occhi. Sorridete. Siete di nuovo sul pianeta Terra. Ora, è possibile che dopo l'esperimento di esplorazione indipendente e autonoma dello spazio interstellare qualcuno, non so, si possa sentire un po' un deficiente, un po' confuso, inebetito, insomma, non so se vi può servire un po' di tè, un po' di caffè, magari una secchiata d'acqua, insomma, fate qualcosa per ritornare in voi. Una volta terminato l'esperimento, di norma, almeno i nostri novelli astronauti indipendenti intrattengono lunghe conversazioni sulle proprie esperienze, le visioni, gli avvistamenti. Insomma, che non è una cosa che uno fa tutti i giorni. E se avete qualcuno vicino, insomma, potete. Anzi, raccomandiamo proprio la necessità e l'importanza di permettere a voi e anche alle persone che vi sono attorno di sfogarsi liberamente. Fino a che non decidano di allontanarsi per conto proprio, senza fretta.